English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Ve l'avevamo promesso, questa settimana ci occupiamo di Oscar. La scorsa settimana avevamo fatto quasi una scommessa, avevamo puntato un po' su Colin Firth, o meglio avevamo confessato che ci speravamo in un Oscar per lui, avevamo fatto sentire il suo discorso, il suo acceptance speech ai Golden Globe, sperando di ascoltare poi in settimana quello della notte degli Oscar, e così è stato. Ascolteremo tre discorsi di tre vincitori della statuetta dell'Academy, ma cominciamo davvero dal miglior attore protagonista, ovviamente Colin Firth. I'm afraid I have to warn you that I'm experiencing stirrings, somewhere in the upper abdominals, which are threatening to form themselves into dance moves, which, joyous as they may be for me, it would be extremely problematic if they make it to my legs before I get off stage. So I'm going to do my best to be brief with my gratitude first to for being on this extraordinary list of fellow nominees. All the crew, my fellow cast members, and to the Anglo-Italian-American-Canadian axis, which makes up my family, and Livia, who I hold responsible for this and for really everything that's good that's happened since I met her. Now, if you'll all excuse me, I have some impulses I have to tend to backstage. Thank you very much for your pardon. Un attore italiano probabilmente cosa farebbe? Per scaramanzia non si scriverebbe il discorso, purtroppo non si può fare così, bisogna presentarsi col fogliettino, nel caso dei signori nella tasca della giacca, con il ringraziamento scritto e sperare poi di leggerlo. Spesso è un discorso a effetto, e questo in effetti lo è, perché come avete sentito il pubblico ride moltissimo alle battute di Colin Firth. Che ha questo modo molto divertente di esprimersi, forse ricorderete la settimana scorsa faceva tutto quel giro di parole per dire quanto sono importanti le long lasting relationships alla sua età, e qui invece è talmente felice che è evidente che vorrebbe fare un ballo di gioia, e quindi dice I experience some stirring in the upper abdominals, cioè sente che ci sono come dei sommovimenti nella parte superiore dei suoi addominali. E questo è molto threatening, questa è una minaccia, perché si stanno minacciando di form themselves into dance moves, cioè questi movimenti, lui non è un ballerino, però in qualche modo potrebbero diventare movimenti di danza, e insomma lui pensa probabilmente di non essere un bravo ballerino, ma che potrebbe essere preso da questa euforia. Insomma, felice, è felice. E infatti dice probabilmente è una minaccia per voi che mi vedeste ballare nel caso in cui questi sommovimenti nei muscoli arrivassero poi alle gambe, allora a quel punto non c'è più niente da fare. Qui l'espressione è they make it to my legs. To make it to something or to make it to somewhere vuol dire riuscire ad arrivare a, in questo caso figurato naturalmente, o meglio più o meno figurati, movimenti che dagli upper abdominals scendono fino alle gambe, oppure anche to make it, tomorrow I'll make it to Bologna, domani arriverò a Bologna anche se nevica, ecco. La lista dei ringraziamenti poi è lunghissima, ovviamente noi abbiamo potuto prenderne solo alcuni secondi perché i candidati hanno a disposizione, i vincitori hanno a disposizione circa 2 minuti e mezzo per ringraziare tutti. Abbiamo preso un paio di esempi delle persone che ha ringraziato. Allora, prima di tutto naturalmente ringrazia in modo molto gentile tutti i suoi fellow nominees, cioè i nominees sono, sapete, le nominations sono appunto le nomination, cioè i nomi di quelli che verranno, che potrebbero vincere il premio, i nominees sono i nominati. E poi ringrazia i fellow cast members, fellow naturalmente ai miei compagni, quindi i miei compagni nominati e i miei compagni nel cast. Poi io non potevo non metterlo, visto che già la settimana scorsa aveva concluso il suo ringraziamento ringraziando Livia, che ormai conosciamo come se fosse amica nostra, e Livia riappare. Livia riappare al Golden Globes, l'aveva detto che avrebbe potuto invecchiare fino a qualsiasi età a patto che ci fosse lei, e questa volta dice I hold her responsible for this. To hold somebody responsible vuol dire ritenere qualcuno responsabile di, in senso positivo o negativo, quindi lui dice in un modo anche un po' così spiritoso, dice la responsabilità di quello che mi sta succedendo è sua, e in realtà anche di tutto ciò che mi è successo di bello dopo che l'ho incontrata. E poi dice now if you'll excuse me, questa è un'espressione molto inglese, ora se potete scusarmi, I have some impulses I have to attend to backstage, questi suoi impulsi che potrebbe essere qualsiasi cosa, una danza folle, la danza dell'Oscar, e però la fa backstage. A proposito di danza, l'Oscar è andato poi per la migliore interprete femminile alla ballerina. È un po' un classico degli Oscar premiare l'attore che riesce a trasfigurarsi completamente, e qui invece si premia un'attrice che si è trasformata in ballerina. Anche qui la scommessa un po' l'avevamo fatta la scorsa settimana, la statuetta l'ha presa davvero Natalie Portman. This is insane. And I truly, sincerely wish that the prize tonight was to get to work with my fellow nominees. I'm so in awe of you. I am so grateful to get to do the job that I do. I love it so much. I want to thank my parents, who are right there, first and foremost, for giving me my life and for giving me the opportunity to work from such an early age and showing me every day how to be a good human being by example. And I want to thank my team who works with me every day. Most importantly, my family, my friends, and my love. Thank you so much. This is insane. Quante volte sentiamo questo aggettivo in bocca agli americani nei vari film, telefilm? This is insane. Un false friend, perché naturalmente non vuol dire né malsano né insano, ma pazzo. Questa è una pazzia. Le sembra tutto talmente bello che è appunto da essere una follia. E poi però dice, questa è una cosa molto carina, I truly, sincerely wish, veramente, sinceramente, profondamente, desidererei, the prize tonight was to get work with my fellow nominees. Quindi come prima i nominees, Colin li ha ringraziati, lei addirittura dice, mi piacerebbe che il premio fosse riuscire a lavorare con loro, che erano altre quattro attrici candidate come miglior attrice protagonista, effettivamente una più brava dell'altra. E lei ringrazia proprio in generale per l'opportunità di aver fatto questo lavoro. Secondo me non solo per aver fatto questo lavoro, questo Black Swan, ma proprio per aver fatto l'attrice. Sì, we're grateful to do the job that I do. Quindi sono grata perché to get to do something è avere la possibilità di fare qualcosa. Sappiamo questo get quanto viene usato, get, got o gotta in inglese, in americano, scusatemi, quindi questo passepartout, questo verbo passepartout che in questo caso appunto possiamo tradurre con la possibilità di fare questo lavoro. E poi i genitori, first and foremost, quindi per primi e in assoluto di più, foremost è questo, soprattutto per primi ma soprattutto. E poi dice, for giving me the opportunity to work from such an early age, perché la ricordiamo tutto, il suo esordio è stato in Leon, non so se aveva 13 o 14 aveva, anni. Sì, circa 12-13 anni. Quindi from such an early age, quindi l'opportunità di fare questo lavoro, ma fin da quando ero molto, letteralmente, da un'età molto, molto prematura, quindi fin da quando ero molto piccola. Per diventare una brava attrice, ma non solo, hanno voluto anche darle un esempio di vita, questa è una cosa importante che dice Natalie. Qui ci dice, showing me how to be a good human being by example, anzi every day by example. Li ringrazio per mostrarmi come essere una brava persona, un bravo essere umano, con l'esempio, cioè il loro esempio è quello appunto di persone per bene, e dall'esempio effettivamente si impara meglio che da qualsiasi lezione teorica. Vi assicuriamo che non si dimentica Benjamin, il suo fidanzato, futuro papà del bambino, My Love lo dice alla fine. Ma passiamo al miglior attore non protagonista. Lo abbiamo scelto anche perché ha un accento particolare, un modo molto particolare, non sempre comprensibilissimo, di parlare, Christian Bale. Bloody hell. Wow. What a room full of talented and inspirational people, and what the hell am I doing here in the midst of you? It's such an honor. David O. Russell, what a great spirit, you know, on the set. Just fantastic. And thank you so much, mate, for making the work that all of us actors did actually mean something. Dickie and Mickey, where's my quacker? Is he up there? Dickie's out there somewhere, mate. Hey, mate, you're the best. You're the best. I can't wait. And listen, he's had a wonderful story, and I can't wait to see the next chapter of his story, you know? If you want to be a champ, if you want to go train with him, go meet with him. DickEckland.com, go do it. Check him out, okay? All right? He deserves it. A me è piaciuto moltissimo perché ha fatto una sorta di spot pubblicitario per Dick, che è poi il pugile che l'ha allenato, ma sappiamo che questo The Fighter, il film per cui lui ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista, e peraltro Melissa Leo ha vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista, è proprio ispirato alla storia dell'ex pugile. Gli fa una sorta di spot pubblicitario, l'ho trovato irresistibile, sfacciato ma irresistibile. Sì, addirittura ci dà il suo sito, insomma, se vogliamo andare a vedere, perché questo ex pugile evidentemente allena anche o comunque ha messo su una sua attività, e quindi Christian Bale, bellissimo Christian Bale, ce lo consiglia. Io fossi in America ci proverei forse, anche se non so, non amo molto il pugilato, ma Christian Bale mi ha convinta. Anche perché un attore che arriva sul palco del Kodak Theater e esordisce con Bloody Hell è straordinario. È un'esclamazione, insomma, letteralmente inferno sanguinolento, ma è, insomma, un'esclamazione per dire cavolo, caspita. E probabilmente gli sarebbe venuta anche qualcosa di più, ma siccome poi vengono censurate le parolacce, perché credo proprio Melissa Leo ne deve aver detta una ed è subito stata tagliata, lui si è limitato a questo Bloody Hell, che insomma sì, è bella colorita, però non è una parolaccia. E anche qui, come al solito, io credo che siano sinceri, perché l'emozione di vincere un Oscar, di avere in mano una statuetta, ma soprattutto di fronte tutto il gota del cinema, deve essere piuttosto forte. E qui torna l'inferno, che appunto anche qua possiamo tradurre con cavolo in italiano, perché lui dice what the hell am I doing here, ma cosa cavolo ci faccio io qua in questa stanza, in questa room full of talented and inspirational people, perché effettivamente la notte degli Oscar poi sapete che ci va anche chi non è candidato ma magari un grandissimo attore, e quindi insomma effettivamente si è un po' circondati. Poi il ringraziamento a David O. Russell, il regista del film per cui lui ha vinto l'Oscar, The Fighter, che è riuscito anche a creare la giusta atmosfera probabilmente sul set. E Christian Bale ci dice, ringrazia questa persona per dice for, perché cosa? For making the work of all of us actor that all of us actor did actually mean something. Cioè ti ringrazio perché tutto il lavoro che noi abbiamo fatto alla fine significa qualche cosa, e questo naturalmente è in generale merito del regista. E infine, come dicevamo, questo ringraziamento buffissimo a Dick Hickland, hey man, you are the best. You are the best, quindi ci dice check him out, to check somebody out vuol dire andate a vedere con i vostri occhi, no? Letteralmente controllate, ma andate a vedere con i vostri occhi quanto è bravo. All right, poi forse si rende conto che l'ha un pochino esageratamente ringraziato, però allora si autoconvince, dice no, he deserves it, no, se lo merita. Straordinario Christian Bale, miglior attore non protagonista per The Fighter. Abbiamo ascoltato tre estratti da tre discorsi della notte degli Oscar, ma il nostro tempo radiofonico è finito qui. Vi ricordo comunque il nostro appuntamento in edicola e vi segnalo che abbiamo deciso anche di aprire una pagina Facebook, basta cercarci English24, diventare fan, magari questa settimana mettiamo anche video integrali agli Oscar, ai discorsi degli Oscar che vi abbiamo fatto sentire. Intanto diventate fan della nostra pagina di Facebook, ringrazio Fabio Cantadori in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'augurio di una buona serata.